La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Perché a 30 anni hai un'immaturità relazionale che non hai a 48 quanti va adesso, cioè a 30 anni sei solo difensiva anche quando non serve, a 30 anni soprattutto hai un carattere cattivo, io veramente ho un carattere molto più ispido di adesso, perché adesso sono molto più sicura di me. È il 16 aprile 1994. Irene Pivetti della Lega diventa a 31 anni presidente della Camera. Quello di Irene Pivetti, forse, è il simbolo di un primo giorno, di una prima volta, di tutta un'Italia, di un'era politica di esordienti che lascia i partiti tradizionali, come racconterà Nanni Moretti in aprile, senza parole. Silvio Berlusconi ha vinto la sua battaglia. Consentitemi di dire che l'ha vinta con grande coraggio, che l'ha vinta quasi contro tutto e quasi contro tutti. Perché? Perché l'ha vinta contro la gran parte della stampa, la gran parte dell'informazione radio-televisiva. Che dici? Che vuoi dire? Prendo fiato. È andata così? È andata così? Perché mi pare che rispetto alle promesse fateci dai dirigenti del PDS ci sia stata finora una scarsa partecipazione, cioè, al dibattito. Un'assenza totale, evidentemente l'imbarazzo degli ultimi dati fa sì che non vogliano commentare i dirigenti. Insomma, preparati. Allora, se vinci ti prepari un discorso, un vestito, una faccia, vieni giù e parli. Se perdi, perché tanto abbiamo sempre perso, no? Se perdi, scendi, fai una dichiarazione ferma e dignitosa. Sono le 11:30, ancora non si vede nessuno. Alle elezioni politiche del 27 e 28 marzo, gli italiani, esasperati dallo scandalo di Tangentopoli nato dall'inchiesta milanese Mani Pulite, sceglieranno dunque il voto di rottura, di protesta. Silvio Berlusconi è premier. Che resti? La Lega Lombarda al governo sarà il vero fenomeno politico. Irene Pivetti ne è il simbolo. Il primo giorno, alla presidenza della Camera, la Pivetti ha gli occhi di tutti addosso. Sì, me lo ricordo benissimo, alcuni dettagli significativi me lo ricordo. Mi ricordo perfettamente la sensazione mentre ero in aula quando si è raggiunto il quorum. Stavo seduto al mio posto e ti manca sicuramente un battito del cuore. Ecco, il momento in cui hai il classico tuffo al cuore. Poi mi hanno accompagnato fuori dall'aula perché l'annuncio dell'avvenuta elezione deve essere portato al Presidente fuori dall'aula. Mi ha accompagnato fuori dall'aula in un ufficio che è dedicato al Presidente della Camera a piano aula, insomma un ufficio d'appoggio. Lì ho atteso la fine della votazione e mi sono venuti a comunicare questo, il Presidente pro tempore. E poi i brindisi e poi i discorsi, a quel punto io ho detto ma un momento, cioè sono stata eletta io, non è l'apparato che sta celebrando se stesso, qui la responsabilità sta sulle mie spalle e li ho un po' gelati tutti, però era la verità, sia pure un po' brutale, la verità è che quando sei eletto in quel ruolo, qualunque età tu abbia e chiunque tu sia, devi fare ciò che la Costituzione si aspetta da te, cioè tutelare il diritto di tutti a esprimere l'opinione, il parere, il pensiero politico che il popolo ha canalizzato nel voto. Questo è l'unico motivo della tua esistenza e io ho impostato i 2 anni successivi in quel modo lì, cioè non c'era per nessuno, nemmeno per me, ecco, evidentemente, prima di venire al ruolo delle istituzioni. 9 giorni dopo, il 25 aprile, 1 milione di italiani, nonostante la pioggia, scenderà in piazza a Milano. Ribattezzata in un attimo la storica manifestazione del 94, racconterà di un'Italia di lotta di piazza che da anni ormai non si vedeva più. Irene Pivetti è sempre lì, con le sue camicie allacciate fino all'ultimo bottone, le giacche color pastello, i capelli freschi di messa in piega. Diverrà dunque uno dei simboli della Seconda Repubblica. Sarà per molti e per sua stessa missione la ragazza milanese che quasi per caso si trova a fare politica. Ma guardi, lì mi ci sono un po' trovata in politica, come moltissimi italiani, come almeno 10 milioni di italiani in quegli anni, perché sono anni in cui l'Italia stava cambiando da tutti i punti di vista. Molti si catapultarono nel referendum Segni, alcuni nelle manifestazioni di piazza per Mani Pulite, altri nella Lega come me. Cioè, l'Italia era veramente attraversata da un vento politico molto forte. E penso, io come moltissimi altri, non pensavamo mai di fare della politica la nostra vita, anche se poi per me e per altri è successo. Allora sono entrata nella Lega per motivi anche casuali, ci sono rimasta perché poi ero affascinata, mi sembrava di fare una cosa utile, importante, cambiare appunto, migliorare la democrazia in Italia. Poi sono entrata in Parlamento in modo del tutto inaspettato, ci ho fatto 2 anni, quando alla fine di quell'esperienza ho detto vabbè, si chiuderà una parentesi, sono stata rieletta in Parlamento e mi sono trovata Presidente di una Camera. Cioè veramente la vita mia come quella di altri che magari non hanno fatto il Presidente ma si sono ritrovati Presidente di Commissione o Ministro è stata un po', è stata molto spinta da eventi che portavano cambiamenti forti. Cosa bella e anche limite, perché io ho fatto politica così, quando la politica ha smesso di essere così ed è tornata la politica degli equilibri un po' bizantini tra partiti, beh insomma io ho preferito uscire. E ha qualche rimpianto in quegli anni in cui fu presidente della Camera o comunque così? No, sì, guardi, me l'hanno chiesto moltissime volte e io me lo sono chiesto più volte ancora, però rimpianti senz'altro no, è chiaro che svolgere un ruolo di quel livello con un'altra maturità, cioè con 20 anni di più, beh, non può che farti bene, questo è chiaro, insomma hai un'esperienza, ma devo dire soprattutto non nello specifico del diritto costituzionale o altro, perché su questo francamente penso di aver operato proprio bene, ma sul piano delle relazioni personali sì, perché a 30 anni hai un'immaturità relazionale che non hai a 48 quanti ne ho adesso, cioè a 30 anni stai solo difensiva anche quando non serve, a 30 anni soprattutto hai un carattere cattivo, io veramente ho un carattere molto più ispido di adesso perché adesso sono molto più sicura di me, quindi prenderei la cosa con lo stesso impegno ma spenderei tutte le mie energie, cioè, insomma non ne spenderei più tante in questioni che molto meno rilevanti di come mi sembravano. È una prima volta che non sembra avere fine, quella che la 31enne Irene Pivetti vive in quello storico aprile del 94, un periodo che segnerà per sempre il corso della politica italiana e la vita di Irene Pivetti. È la prima volta di Irene Pivetti come presidente alla Camera, ma è soprattutto il primo giorno di una nuova era politica, il cui vero nuovo protagonista nel bene e nel male sarà la Lega Lombarda. Bossi, la Pivetti e la Lega entreranno nell'immaginario di tutti. Massimo Troisi li racconterà così. Poi è politica, non ci voglio arrivare a parlare così perché un po' ci ho paura io però. Perché? Mio padre c'ha paura della Lega Lombarda. Ah. Lui è napoletano, allora pensa Bossi, Umberto Bossi, capisco. Allora c'ha paura. A parte il fatto che poi mio padre non sa che Bossi invece sta in disgrazia. Il capo della Lega Lombarda sta in disgrazia. Ah, non si sa questa cosa? No. Lui è stato quasi espulso dal partito. Ma. Dalla Lega Lombarda. Dalla Lega Lombarda. È successa una cosa. Avevano fatto una riunione della Lega Lombarda a casa di Umberto Bossi, no? Sì. Allora a un certo punto si è fatto tardi, dice allora Umberto beviamo una cosa, sì, i bicchieri dove stanno? Stanno là sotto, e andate a cercare il bicchiere, un altro della Lega Lombarda, mentre cercava il bicchiere è caduto un pannello, una cosa, hanno trovato un 45 giri di Peppino di Capri, lui si faceva la barba e tu sei una malattia, capito? E poi vai contro, allora Bossi, dillo, io amo i napoletani, amo Peppino di Capri. Bisfrattata, guardata con sospetto e indignazione a sud, la Lega rappresenta un nord esasperato e senza voce, come ben comprende un giovane Umberto Bossi nel discorso di Pontida del 94. O peggio, perché gli stessi di prima potessero riuscire ad assorbire un movimento politico profondamente diversa per ideologia, per storia, per meriti. E ancora ho attaccato subito per riuscire nel più breve tempo possibile a rendere visibile la differenza politica e ideologica tra noi e i nostri alleati di governo in modo da poter impostare la strategia futura da subito. E vi odio a voi romani, io vi odio tutti quanti, brutta banda di ruffiani ed intriganti, camuffati bene o male da intellettuali assalti. Io vi odio a voi romani tutti quanti. Il discorso di Umberto Bossi è anche l'apice della crisi della Repubblica Partitica, che fino ad allora aveva governato il paese, giunta a quello che molti chiameranno il terremoto Mani Pulite, che determina lo scioglimento dei grandi partiti, in primis la Democrazia Cristiana. Colleghi deputati, nel momento in cui, dopo l'esito della votazione, assumo la carica di Presidente della Camera, rivolgo il mio ringraziamento a tutti voi, nessuno escluso, per la stima e la fiducia di cui avete voluto onorarmi, chiamandomi a questo altissimo compito. La Camera è infatti espressione diretta della volontà popolare e della democrazia, fondamento di quelle libertà che tutti indistintamente siamo impegnati a difendere e amare, nel rispetto delle pluralità, che sono patrimonio e grande ricchezza per tutta la nazione. Come cittadino e come presidente della Camera, mi inchino alla Carta Costituzionale e mi impegno alla rigorosa osservanza del mio mandato istituzionale. Come cattolico, non posso non affidare la mia opera in questo Parlamento e nella preghiera alla vita del Paese alla volontà di Dio, a cui appartengono i destini di tutti gli stati e della storia. Io so che potrò esercitare le mie funzioni contando sull'aiuto e sulla collaborazione attiva di tutti i gruppi parlamentari e di tutti voi singolarmente. Collaborazione che io chiedo e considero essenziale, perché la mia elezione coincide con un periodo storico particolarmente importante, decisivo anzi per il nostro Paese. Siamo al passaggio dalla prima alla seconda Repubblica. La seconda Repubblica è nata. Muove tra le camicie verdi leghiste, i foulard di Irene Pivetti e le barzellette di Silvio Berlusconi. È un momento, come dirà chi l'ha vissuto dall'interno del palazzo, pieno di fermento e di confusione. Irene Pivetti è dunque nel circo romano della politica, in uno dei periodi più intensi e tragici della storia contemporanea. Un mondo che apparirà ai suoi occhi così. Somiglia molto alla linea del bagnasciuga, dove ci sono onde che vanno, onde che vengono e la sabbia sotto, la politica di quegli anni, cioè per dire che c'era un sostrato stabile che era quello della politica di sempre, che c'era prima, c'è adesso, ci sarà dopo, che è un po' il bene, la sapienza delle istituzioni, un po' il male, le vecchie cattive abitudini, che ristagnava comunque. E poi c'erano un sacco di gente spazzata via da Tangentopoli e un sacco di gente nuova che arrivava in parte freschi, con idealisti eccetera, in parte dilettanti allo sbaraglio. Quindi questo era un po' il circo che si viveva, che mischiava elementi buoni e cattivi, elementi vecchi e elementi nuovi. Era veramente molto molto turbolento, ecco, anche l'interno. Quindi da una parte forse non rispecchiava il mondo esterno, ma dall'altra sì, perché anche il Parlamento, anche le istituzioni erano attraversate da grandi inquietudini, e non tutte positive, non tutte negative. Tant'è che io, in questo eravamo d'accordo con Giulio, il Presidente del Senato, interpretando il nostro ruolo come quello di stabilizzatori, cioè io volevo ad ogni costo che la gente fuori vedesse meno liti possibile, perché già ce n'erano nell'eccesso. E quindi noi dovevamo essere anche mediatori. L'obiettivo di questa ragazza, giovane alla presidenza della Camera, è dunque mediare e tentare di tenere a bada risse e tensioni interne al Parlamento. Un rigore che le verrà poi rimproverato, anche dal suo stesso partito. Storico sarà il momento in cui l'allievo Pivetti zittisce il maestro Umberto Bossi. Un'ultima cosa, do finito. No, il suo tempo è proprio scaduto. Sono costretto a toglierle la parola, come d'accordo nella conferenza dei capigruppo. Il tempo sarebbe stato rigorosamente rispettato, mi dispiace. Va bene, la ringrazio, onorevole Presidente. Una ragazza al potere, aprono così i giornali di allora. Irene Pivetti, nonostante tutto regge e porta a casa anche il mezzo plauso di persone intransigenti come Eugenio Scalfari, che dalle pagine di Repubblica la descrive non ipocrita, non untuosa, non obliqua, donna convinta ad avere una missione e posseduta da una passione. Una ragazza al potere che comincia a dare qualche fastidio, neanche 5 mesi dopo la sua nomina, come scriverà Maria Latella sul Corriere della Sera. Primo, una presidente della Camera giovane, carina, così tratteggiata da Eugenio Scalfari, non ipocrita, non untuosa, non obliqua, donna convinta d'avere una missione e posseduta da una passione. Una trentenne presentata, or non è molto, dal settimanale di destra L'Italia come capo potenziale di un governo istituzionale. Una signora che Gianfranco Fini, a colloquio col professor Cardini, definisce il vero uomo della maggioranza, ma che per un esponente di Forza Italia, Pietro Di Muccio, si sta semplicemente preparando a mollare la Lega, cercando un collegio sicuro per le prossime elezioni. Secondo ingrediente, una biografia non autorizzata pubblicata a puntate su Epoca, settimanale del gruppo Mondadori. Terzo ingrediente, l'ombra del complotto. Il dubbio aleggia sulle presidenziali stanze di Montecitorio. Non sarà che carolinizzandola, insomma trattandola come Carolina o Lady Diana o analoghe star predate dai media, vogliono tagliarle politicamente le gambe? La Pivetti sarà guardata con sospetto e diverrà bersaglio anche tra alcuni colleghi di partito. Diventerà anche rapidamente il simbolo di un governo, quello di Berlusconi, che fatica a stare in piedi. Chiunque si sentiva in diritto di dirla sua. Però sa che quello è stato un grande allenamento, perché adesso i giornali possono un po' scrivere quel che vogliono, ma è difficile che la scalfiscano. Senta, qualche aneddoto di quei giorni, proprio del primo giorno della presidenza della Camera, ma in generale, che non ha mai però raccontato? Beh, ce l'ho raccontato a poche persone sicuramente, e comunque il più prezioso. Quando finita tutta la giornata, allora io due giorni prima era stato chiaro che sarei stata eletta, il giorno prima ne abbiamo avuto la certezza perché rientravano certi equilibri. Quindi, ma io all'epoca però non avevo né segreteria né niente, e mi dissero scegliti chi ti deve fare da segretaria. Io mi presi nel partito una giovanissima, allora veramente giovanissima segretaria, che secondo me era una persona dolce e intelligente, una grandissima lavoratrice, più esperta di me ovviamente, ma insomma. Questa ragazza mi è stata attaccata tutta la giornata, tranne che in aula chiaramente. Una giornata che prima le ho raccontato un breve tratto, ma insomma è stata veramente piena di eventi, di incontri, di chiacchiere, di giornate, di interviste, di dichiarazioni, di tante cose. Finito tutta questa fiori, congratulazioni, eccetera, mi portano verso sera in quello che sarebbe stato il mio appartamento provvisorio, perché Napolitano, all'epoca presidente uscente, non aveva ancora liberato il suo appartamento. In questo appartamento provvisorio, invaso di fiori fino a non so dove, cioè c'è un odore, sa, proprio intenso, entro, e sto lì faccio gli ultimi incontri, finalmente se ne esce anche l'ultimo, e se ne esce anche l'ultimo commesso. Chiude la porta. Ci siamo seduti sul divano io e questa ragazza, ci siamo guardati in faccia, non abbiamo detto niente. A quel punto stava soltanto a noi, poi a me chiaramente. Lì è stato un momento che veramente, non c'erano parole allora, ma neanche adesso ce ne sono, ecco, per dire che adesso questo è tutto il circo, dopodiché il domatore sono io. Bisognava riuscire a gestire questa realtà senz'altro più grande di noi. Devo dire che grazie alla grande esperienza, di cui comunque questi palazzi sono impregnati, una certa intelligenza, disponibilità e buona volontà da parte mia e molta preghiera, con questi ingredienti siamo riusciti ad arrivare con decoro in fondo all'operazione. Senta, chi fu il politico, se si può dire, più cattivo nei suoi confronti? Guardi, più pagliaccio è stato senz'altro Vittorio Sgarbi, che non ha perso un secondo, mi attaccava tutti i giorni in televisione, era una cosa fin comica, dico ma devo proprio piacerti tanto, perché sennò non spenderesti tutte queste energie. Però cattivi ce ne sono stati. Mi ferì moltissimo Pannella, perché siccome rimaneva fuori dal governo con i radicali, era invelenito E allora attaccò in maniera molto pesante, diciamo, dandomi, usando tutto un frasario, un arsenale di accuse a base di razzismo e di fascismo che proprio non meritavo, non incarnavo. Io ero e sono una persona moderata, diciamo così, di destra, però questo non fa di me né un intollerante, né men che meno una razzista, questo fa ridere, una figura, ecco, queste accuse le ho trovate veramente feroci e inutili. Peraltro se le poi rimangiate negli anni, quindi la cosa mi fa stare abbastanza tranquilla. Da lì a qualche anno i pensieri della ragazza, che credeva di poter far bene le cose, cambiano. La Lega di Bossi preme per la secessione. Irene Pivetti uscirà dal partito. La politica, perché appunto si era chiusa quella stagione lì, e posso solo dire che forse sono viziata, nel senso che ho vissuto la politica come un momento di grande passione, quando quello, il momento di passione era necessariamente esaurito, non tanto per me ma per la storia, cioè era il momento appunto della rinormalizzazione della politica. Io mi sentivo soffocata, cioè trovavo l'ambiente asfittico, ecco, e non mi piaceva, non era più la cosa che volevo dalla mia vita. Per cui ho detto, va bene, posso scrivere, sono giornalista, ho fatto il mio bel praticantato, ho fatto il mio bel esame di Stato e sono diventata giornalista professionista. Inaspettatamente, perché non erano i miei piani, è entrata la televisione che mi ha aperto di nuovo un grande mondo professionale serio, molto stimolante e tra l'altro molto simile alla parte vera della politica, cioè mi permetteva il contatto diretto con la gente. Poi a questo si è aggiunta appunto questa esperienza professionale di consulenza a tante imprese che mi ha formato e che mi ha portato all'ultimo step, che vorrei tanto non cancellasse la TV, perché la TV la amo molto e voglio continuare a farla, ma insieme portare competenze di tipo economico dedicate interamente allo sviluppo delle aree svantaggiate. E la politica invece no, non la vorrebbe ricominciare? Allora, non lo escludo, guardi, oggi in altri tempi avrei dato un'altra risposta, oggi non lo escludo, però certo non a condizione di rinunciare a questo, cioè per fare questo magari meglio, ecco, io già questo è anche comunque un modo per fare politica, portare sviluppo dove non c'è, si può anche pensare di farlo con la politica, ma certo non mi metterei a fare politica per fare battibecchi di partito, questo no, ecco, se c'è un modo per portare avanti un programma economico di sviluppo, questo lo faccio con tutto il cuore. La prima volta si ferma qui. La prossima settimana vi faremo ascoltare la prima volta di Edoardo Galeano. Le puntate sono disponibili per il riascolto sul sito di radio24.it. Se volete scriverci invece l'indirizzo è @radio24.it. Buona giornata a tutti da Cristina Carpinelli.